Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo, Sebastiano Barisoni. Grazie per, inciso, per i numerosi messaggi di affetto che sono arrivati. Vediamo adesso di non mancare più, di mancare meno possibile, ma al di là dei casi personali che sono irrilevanti, riprendiamo anche, aggiungendoci a quella che è stata l'ottima narrazione di Deborah Rosciani e Simone Spezia in queste settimane, che ringrazio sentitamente, riprendiamo anche a raccontare la cronaca dell'economia e delle finanze, della giornata economico-finanziaria. Cronaca che oggi vede soprattutto due aspetti: il dibattito, polemiche che ha aperto il ministro Saccomanni con le dichiarazioni di ieri sull'IMU, sulla seconda rata dell'IMU, ossia non ci sono i soldi per coprire, per la copertura che riguarda la seconda rata dell'IMU. Oggi numerose, tra virgolette, smentite, a partire dal ministro Graziano Del Rio, che ha detto c'è un impegno e va rispettato. Ancora il ministro del lavoro Enrico Giovannini, che ha detto vanno ancora recuperate alcune coperture sulla seconda rata dell'IMU. E poi il vice premier Angelino Alfano, la dichiarazione forse di maggior peso, come vi hanno raccontato i nostri GR, la seconda rata non si pagherà, è un impegno che sarà mantenuto. Anche per il ministro Saccomanni l'impegno è un impegno non eliminabile. Questo per quello che riguarda l'elemento IMU. L'altro aspetto, e comunque ne parleremo perché segnala a mio avviso una certa confusione, non mentale, ci mancherebbe, ma confusione economica sulle cifre. Dovrebbe essere abbastanza chiaro in questo periodo dell'anno se le coperture per l'IMU, per la seconda rata IMU, ci sono oppure no. Parleremo del piano industriale di Pirelli, la Due Giorni, che sta seguendo da Londra la nostra Valentina Fulanetto. Oggi, dopo aver annunciato ieri dei conti sul 2013 peggiori delle attese, con utili in calo soprattutto per una domanda europea che si è fermata, oggi Pirelli ha presentato il nuovo piano industriale 2013-2017, decisamente più ambizioso, tant'è che il titolo in borsa guadagna adesso il 5,27%, è il miglior titolo della giornata tra i titoli a maggiore capitalizzazione. Dicevo, piano ambizioso, 7 miliardi e mezzo l'obiettivo dei ricavi per Pirelli entro il 2016, l'EBIT, quindi gli utili prima di interessi e tasse, oltre il 15%, investimenti importanti in Russia ma anche in Cina e in America Latina, e confermato invece un piano di payout, quindi di distribuzione degli utili tramite dividendi per gli azionisti, pari al 40% dell'utile consolidato e pari come valore a 700 milioni di euro. Anche di questo parleremo, e poi avremo un approfondimento sull'Italia. Devo dire che ascoltare la cronaca economico-finanziaria di questo paese dall'ospedale o da un letto a casa è forse anche più deprimente che non farlo in studio, e rivedere dichiarazioni che potremmo tranquillamente rimandare in onda tutte le puntate fatte sull'Italia nel 2008, perché mi sembra di capire che siamo punto a capo, con l'aggiunta che abbiamo perso 5 anni, che è inutile girarci attorno. La strategia individuata per l'Italia, non sto dando la colpa in maniera diretta, ma è stata una strategia sbagliata, nel senso che non avere puntato, lo dice il vicepresidente Mancuso in queste settimane, non avere puntato sulle long haul, sulle tratte lunghe, sulla parte asiatica, sulla parte dei BRIC, dei paesi emergenti, Brasile, Russia, India e Cina, che hanno avuto, unici nel panorama mondiale, tassi di crescita elevati sul traffico aereo. Ecco, non avere puntato su questo, essersi concentrati sulle tratte nazionali, sottovalutando l'impatto, diciamo, della concorrenza ferroviaria, è stato un errore di carattere manageriale e strategico, fermo restando che gli aerei sono più puntuali, sono anche forse più efficienti, che i costi sono stati tagliati e quant'altro. Detto ciò, ci occuperemo di Alitalia, perché mentre non si esclude un nuovo alleato, non in alternativa del France KLM, ma in aggiunta, e di nuovo circola il nome della Russa Aeroflot o dell'Araba Etihad, prosegue il lavoro sul piano industriale, ma ci sono anche problemi di carattere giudiziario perché la società è indagata per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. In tutto questo si inserisce però anche una dichiarazione del numero uno di Meridiana che dice: attenzione, l'Italia come paese ha agevolato eccessivamente, in maniera a questo punto anche masochista, le compagnie low cost, ed ecco perché diciamo, questo ha contribuito a creare un danno ulteriore ad Alitalia. Ne parleremo con lo stesso numero uno di Meridiana. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, dicevamo già di Pirelli più 5,27%, Prysmian più 4, G-Tech più 3,15%, Enel Green Power più 2,30%, come Telecom Italia il 2% lo guadagna, Fondiaria Sai il 2% e anche il rialzo di Azimut, l'1,5% quello di Enel e di Finmeccanica. Sul fronte opposto Mediobanca meno 1,40%, Mediaset meno 1,20%, Monte dei Paschi e Ubibanca perdono l'1% e lo 0,90% lo perde anche Ansaldo STS, Diasorin meno 0,70%. Complessivamente Milano guadagna lo 0,40% in linea con il resto d'Europa, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,30%, Londra invariata e l'America più 0,55%. Le aste dei titoli di Stato. Allora, anche in Germania è andata bene l'asta, il tasso di rendimento medio è sceso lo 0,71% rispetto allo 0,80%, cioè quello che la Germania ha dovuto offrire per trovare compratori per il suo debito. Domanda più che buona, 2,3 volte l'offerta. Bene anche l'andamento della nostra asta, già ieri si era capito che c'era stato il botto in senso positivo, ha raccolto il tesoro 22,2 miliardi di euro. Si è chiusa praticamente con un risultato record per il BTP Italia, che lo ricordo è quello indicizzato all'inflazione. Ho capito la critica che muovono alcuni, che l'inflazione è bassa, il rendimento è basso, però adesso io mi auguro che non resteremo per sempre con un'inflazione dello 0,7, nel senso che qui siamo in deflazione e quindi sappiamo che la deflazione è il termometro di un'economia stagnante o in recessione, cioè quando i prezzi tendono a calare invece che a crescere. E quindi un BTP indicizzato a un'inflazione che, con ogni probabilità, se l'economia dovesse ripartire come tutti ci auguriamo, tornerà un po' a crescere in maniera, anche se mi permettete il termine, un po' salutare, che ne pensi la Bundesbank, beh, allora il BTP diventa più interessante perché comunque si lega all'inflazione. Lo spread italiano come va? Poco sotto i 240, 239, 238 punti. E che si sia in una situazione di deflazione preoccupante lo ha ricordato oggi anche il presidente Confindustria Giorgio Squinzi a margine del comitato di presidenza a Bruxelles. Ha detto: il fatto che l'inflazione diminuisca nonostante ci sia stato un aumento dell'IVA significa che siamo in una situazione di vera e propria deflazione, quindi se levassimo dal dato l'aumento dell'IVA avremmo, e di alcuni generi diciamo poco comprimibili, avremmo un segno meno. Vedo già alcuni ascoltatori che al 349-238-6666 chiedono: ma perché la deflazione sarebbe un male? Lo abbiamo spiegato già altre volte, è ovvio che i prezzi calino vista così sembra un bene, ma in realtà siccome i prezzi calano perché non c'è domanda quando succede, o perché c'è un eccesso di offerta, vabbè, ma questo non è il caso, perché non c'è domanda. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai attese di prezzi in calo tendi a rinviare l'acquisto, perché è ovvio che se io penso che quel bene oggi costi 1000, domani costi 990 e fra un mese costi 900, tenderò a comprarlo fra un mese. Questo significa dilazionare, ritardare tutti i pagamenti, tutti gli acquisti, e quindi rendere e avvitare ancora di più la fase recessiva di crollo della domanda interna. Questo è il vero problema della deflazione. Allora, c'è un ascoltatore che mi chiede quando torna Simone Spezia, ma lasciatelo respirare, aspettate che mi rompa l'altra gamba, l'altra tibia, le altre tibie, quindi, no scherzo, bravissimo Simone Spezia, mi dispiace, dovrà subirsi me per un po', Qualcuno pensa che me l'abbia fatta la Merkel, la vendetta della Merkel, ma no, dai, la Merkel non ha bisogno di vendicarsi su di me, ha già tutto. E poi dovrebbe vendicarsi di più sul Fondo Monetario Internazionale e anche su Barack Obama, visto che tutti le stanno dicendo, alla Germania, non alla Merkel, che non può continuare a avere consumi così bassi, investimenti così bassi, export così alto, perché crea uno squilibrio all'interno dell'area euro e in generale. Visto che ho citato il presidente di Confindustria Squinzi, vale la pena ricordare quanto ha dichiarato in merito alla legge di stabilità, sempre da Bruxelles. Ha detto: la legge di stabilità è ancora un libro ancora da scrivere. Mentre Confedilizia lancia l'allarme e dice: attenzione, se non verrà cambiata la legge di stabilità nel 2014, quindi l'anno prossimo, avremo un maggior aggravio di tasse sulla casa che potrà arrivare fino a 29 miliardi di euro. Questo è il combinato disposto di IMU e TASI. Paga e TASI. Il ministro Giovannini, qui insomma ne parleremo anche dopo perché avremo un approfondimento su questo, IMU e risorse. Il ministro oggi ha dichiarato che mancano ancora 350 milioni per la cassa integrazione in deroga per il 2013. Io cercherò di avere maggiori spiegazioni, perché mi sembrava, ma forse la convalescenza mi ha annebbiato, mi sembrava che il governo nell'ultima mini manovra, non quella, avesse recuperato anche le risorse per la cassa integrazione in deroga. Era uno degli obiettivi, delle risorse da recuperare, 350 milioni di euro. Ma tant'è, crolla nel frattempo la cassa integrazione in deroga, dato dell'INPS sul mese di ottobre, meno 12%, mentre le ore complessive della cassa integrazione le ore complessive sono calate del 12%, la cassa integrazione in deroga ha fatto un meno 58%. Purtroppo le domande per sussidi di disoccupazione sono salite a quota 1.400.000 nei primi 9 mesi dell'anno, più 27% rispetto all'anno scorso. Un dato questo, cioè la richiesta di disoccupazione, domande per disoccupazione, che purtroppo si sposa con il dato della settimana scorsa sui 6 milioni di disoccupati, di cui 2 milioni di NEET, cioè giovani che non studiano, non lavorano, non si formano, e che va a braccetto, se così possiamo dire, con il dato diffuso oggi da Confcommercio. Il mese di settembre ha visto un altro calo nei consumi, meno 1,3% su base annua, a meno 0,5% su base mensile. Lo dico perché in tutto questo, poi, e anche qui lasciatemi essere solo per oggi autoreferenziale, uno da casa ascolta i dati, legge i siti, i dati macroeconomici, poi a fianco arrivano altre notizie e si chiede quanti paesi ci siano in questo paese, perché non voglio tornare sui temi degli sprechi della pubblica amministrazione, ne parleremo di nuovo. Ma insomma, leggere in questo periodo, al di là delle polemiche politiche inutili su cose che interessano marginalmente gli italiani, ma insomma, che nel 2011 i soldi pubblici a disposizione dei consiglieri regionali in questo paese sono stati 47 milioni di euro. Questi sono rimborsi extra che sono stati destinati ai gruppi regionali, alla faccia della lezione su Fiorito, che si sono andati ad affiancare all'autocompenso percepito già mensilmente. Come se non bastasse, perché già sono pochi, veniamo dallo scandalo Emilia-Romagna, i costi della politica per il PDL 220.000 euro in cene, le dimissioni del capogruppo PD Marco Monari, prima vittima tra virgolette dell'inchiesta, e appunto i costi dei rimborsi per i ristoranti, 220.000 euro per il PDL in 19 mesi, pranzi e cene con simpatizzanti, il PD 145.000 euro a 24.000 consiglieri, la Lega Nord 53.000 euro, parlo di rimborsi, pranzo e cena, il Movimento 5 Stelle con 18.000 euro, l'UDC con 6.500, ma io dico una cosa, ma se sono devono essere pranzi e cene di lavoro, ma se devono costare queste cifre, vedetevi per un caffè, andate a mangiare al bar o pagate di tasca vostra. Ma io non ho capito, ma che cavolo di incontri di vertice istituzionale possono portare a 220.000 euro in cene in 19 mesi o in 150.000 euro per il PD. Per gli alberghi 17.000 euro per il PD. Stiamo parlando dei consiglieri regionali dell'Emilia Romagna, non del ministro e del viceministro in viaggio istituzionale. 17.000 euro per il PD, poco il PDL 2000, i 5 Stelle 1.100, l'UDC 1.700 euro. Monari, Marco Monari, attenzione perché qua qualche veneto è in ascolto, Marco Monari, cosa a lui sono riferiti, a metà con il collega di partito Roberto Montanari, 800 euro per due notti ad Amalfi a fine luglio. Ero a lavorare. Allora, alla fine luglio ad Amalfi lavorare devi veramente essere Stakhanov, è vero che è l'Emilia Romagna, però, perché non ti viene proprio voglia. Era un seminario di area democratica. E chi se ne frega, cioè pagatelo e gli 800 euro lasciali alla regione. L'unico esponente grillino, Andrea De Franceschi, ha definito la scoperta dell'acqua calda, 18.000 euro di rimborsi sui pasti per due consiglieri, sono 21-22 euro a testa, e quindi difende anche il consigliere del PD, del grillino, nelle spese. Io potrei andare avanti per ore perché abbiamo sempre Monari, una pena dal valore di 500 euro, immagino fondamentale. Il consigliere del PDL Andrea Pollastri, nomen omen, 500 euro per un rinfresco a Piacenza in occasione della visita di Luigi Casero, sottosegretario. Manco fosse, capito, Mahatma Gandhi che viene a visitare Luigi Casero, 500 euro per un rinfresco. E poi un regalo a un parlamentare del partito, 300 euro, non si precisa che cosa, l'autore è Luigi Villani. Poi oggi arriva anche l'inchiesta sarda, perché non ci facciamo mancare nulla. Due consiglieri regionali, Mario Diana, ex capogruppo del PDL, e Carlo Saint-Just del PDL, hanno praticamente anche qui uso illecito dei fondi ai gruppi dei gruppi consiliari. Allora, il consigliere regionale Mario Diana era la guida di Sardegna, è già domani. Sardegna è già domani, adesso però per lui è già dopodomani, perché è stato trasferito nel carcere di Oristano. Carlo Saint-Just, anche lui indagato per peculato, dovrà spiegare, e con questo chiudo perché va bene che mi fa male la gamba, che ho le viti e i chiodi e che prendo gli analgesici ma non bastano. Saint-Just dovrà spiegare la spesa di 20.000 euro di fondi che secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato per il suo matrimonio, immagino con un esponente politico, non so, le larghe intese, anche nelle mura domestiche. 20.000 euro per il suo matrimonio presi dai fondi regionali, intanto è nel carcere cagliaritano di Buoncamino. Hanno anche arrestato l'imprenditore specializzato nel catering, Riccardo Cogoni, e perquisito lo studio odontotecnico del consigliere regionale del PDL, Onorio Petrini. Allora, io ho una sensazione che questa classe politica, parlo anche della classe politica locale, regionale, ci voglia prendere per sfinimento. Voglia pensare che tanto l'avranno vinta loro perché noi ci stuferemo, perché smetteremo di parlarne. Se pensano così, per quello che riguarda questo programma, si sbagliano. E vorrei dedicare a tutti loro una canzone, un vecchio brano di Brian Ferry, che ricorda come nulla sia per sempre e anche loro prima o poi passeranno e noi saremo qui a vedere, a ricordare e a annunciare quando questo tipo di classe politica passerà, se ne sarà andata, perché nulla, nulla, nulla è per sempre. Poi volete mettere il rimborso di diversi gruppi consigliari dell'Emilia Romagna di scontrini per l'utilizzo di bagni pubblici, 50 centesimi, ma vi presto il pappagallo. E poi i rimborsi per l'asciugacapelli, il divano letto, bottiglie di vino da oltre 100 euro, salumi, frutta, verdura, penne e pacchetti di caramelle. Certo che anche in Liguria non si fa mancare nulla, è Rosario Monteleone, UDC, 189.000 euro in 24 mesi senza pezze giustificative. Eh sì, sì, è sempre la stessa vecchia scena, come cantavano i Roxy Music. Brian Ferri, vogliamo parlare della Calabria? Ah sì, dai. 13 politici indagati, mo ci siamo accorti che le spese folli andavano dal 2010 al 2012. Ogni gruppo consigliare ha gestito 4.462.000 euro per acquistare, tra le altre cose, balli cubani! Balli cubani! In Calabria avete già tutte le canzoni folcloristiche locali, i balli cubani, le valigie, l'abbonamento a Sky, l'argenteria, omaggi gastronomici ai parenti del defunto e i profumi. Dale. Poi parleremo anche dei militari in pensione. Vabbè, mettiamola come dice un ascoltatore. In questo modo almeno la classe politica regionale mantiene e sostiene i consumi dell'economia. Ma niente resta per sempre, nemmeno voi. Passerete anche voi e noi resteremo qua a raccontare. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di Alitalia e poi delle coperture sull'IMU e anche sulla cassa integrazione in deroga. Vedo che alcuni contestano le dichiarazioni che abbiamo fatto prima sull'abolizione del valore legale del titolo di studio. Uno può pensarla come vuole, io non intendevo offendere sicuramente l'Università di Urbino, l'ho usata come esempio, sicuramente ci sono campi di eccellenza anche nelle facoltà a Urbino, ed è proprio per questo che o si mettono in concorrenza vera le università e poi si danno anche i soldi a quelle che ottengono i punteggi più alti, sembra che il governo ci voglia mettere una pezza, ma per metterle in concorrenza è chiaro che il valore legale del titolo di studio, per cui la laurea in giurisprudenza presa nell'università X è equivalente per i concorsi all'università Y, non mette in concorrenza un bel nulla, nel senso che avvantaggia chi ha fatto facoltà più facili e svantaggia chi ha fatto facoltà più difficili a parità di corso di laurea, e obiettivamente è il modo per dire tanto sono tutti uguali, sono tutti laureati e quindi dove prendi la laurea e la qualità del cursus honorum che hai fatto non conta nulla. Alitalia, la saga di Alitalia. Allora, riduzione del numero di aerei e ridimensionamento degli organici. Sarebbe su questo che si sta concentrando il nuovo numero uno dell'Alitalia, Gabriele Del Torchio, per affinare il piano della compagnia per i prossimi mesi. Gli aggiustamenti sono attesi all'esame del Consiglio di Amministrazione il prossimo 12 novembre. Non sarebbero previste, a brevissimo perlomeno, missioni all'estero alla ricerca di un altro partner. Resta l'interesse come partner, non in alternativa ma in aggiunta, Air France, KLM, per la russa Aeroflot e l'araba Etihad. Il lavoro sul piano industriale prosegue, riduzione appunto delle capacità con la messa a terra di una ventina di velivoli e ridimensionamento degli organici. Si parla di circa 3.000 esuberi, di cui 2.000 per il mancato rinnovo dei contratti a termine. E poi una nuova tegola invece che si abbatte sulla compagnia, è indagata infatti per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Si fa riferimento alla decisione con cui Alitalia a fine del 2012 mandò in cassa integrazione 250 dipendenti per un eccesso di personale. Secondo le indagini, la compagnia avrebbe dichiarato il falso, avendo stipulato il giorno precedente alla messa in cassa integrazione un contratto con la Carpata Air per il noleggio di aerei e di personale. Quindi 12 novembre CDA, poi 16 novembre il termine ultimo per gli azionisti per partecipare all'aumento di capitale e poi il 20 novembre un incontro, un bilaterale Italia-Francia. Nel frattempo abbiamo letto dichiarazioni insomma, che ci hanno abbastanza colpito, le ha rilasciate al Financial Times l'amministratore delegato di Meridiana, Roberto Scaramella, che ha detto: attenzione, dall'Italia in questi anni sono arrivati aiuti di Stato, sì, ma ai gruppi esteri e soprattutto alle low cost in maniera molto ingiusta. Non c'è nulla di simile da nessun'altra parte del mondo. Dottor Scaramella, buonasera. Buonasera. Cioè, lei ci sta dicendo che siamo stati eccessivamente masochisti? Chiedo perché. Ma, mi dica. Ma io credo che occorra guardare i numeri. In Italia oltre il 50% del mercato domestico è in mano alle compagnie aeree low cost straniere. È un numero che non è raggiunto in nessun altro paese del mondo. E se poi guardiamo cosa è accaduto e perché le compagnie aeree low cost straniere sono arrivate a questa quota di mercato, scopriamo che buona parte degli aeroporti minori italiani e spesso a controllo pubblico hanno dato dei fondi senza gara in modo diretto a delle compagnie straniere, appunto, per ottenere del traffico. Questo secondo noi dovrebbe essere innanzitutto posto a gara e secondo, quando si tratta di contributi che vengono erogati da un'azienda di controllo pubblico che magari è anche in perdita, sono aiuti di Stato e andrebbero restituiti. C'è una nuova normativa europea in corso di sviluppo che regola molto chiaramente questo meccanismo e pone dei limiti molto chiari a quelli che sono i contributi che possono essere erogati per lo sviluppo di nuove rotte, e noi riteniamo che l'Italia possa sicuramente farsi da capofila nell'applicazione della nuova normativa europea che andrà a regolare e semplificare questo meccanismo. Senta, ma secondo lei perché questo è avvenuto? Perché gli aeroporti regionali hanno fatto a gara per accaparrarsi certe compagnie low cost? Per quale motivo? Perché insomma, cioè, noi abbiamo tanti aeroporti, la metà sono strategici, l'altra metà probabilmente non sono così necessari per il territorio, hanno quindi difficoltà a ottenere del traffico, diciamo, naturalmente devono stimolare questo traffico e quindi utilizzano i fondi che hanno a disposizione per sviluppare il traffico. Sicuramente fa bene all'economia delle province, dei comuni nei quali questi aeroporti insistono, ma va fatto nel rispetto delle regole, quindi i fondi devono essere messi a gara e se si tratta di fondi erogati da una compagnia in perdita in supporto a una compagnia aerea che magari toglie del traffico ad altri vettori e crea quindi una distorsione competitiva, questi fondi vanno anche restituiti. Ecco, se lei fosse al posto di Del Torchio, quindi numero uno di Alitalia, cosa farebbe in questo momento? Andrebbe avanti col doppio binario, convincere France a cercare un altro partner? Perché poi io vedo, ci sono delle cose che non capisco, perché vedo il vicepresidente Salvatore Mancuso che ha detto qualche settimana fa è stato sbagliato non puntare sulle lunghe tratte, sui paesi emergenti inteso come Brasile, Russia, India, Cina, là dove si sviluppa il traffico, dove ci sono tentera d'affari ma anche di turismo, e invece abbiamo mollato le rotte intercontinentali e non si è capito il danno, tra virgolette, che avrebbe arrecato la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria. Però poi leggo che appunto nel piano di Alitalia verranno lasciati a terra una ventina di velivoli. Allora, non è che continuando a tagliare poi vai sotto, diciamo, le dimensioni minime per resistere? Allora, guardi, innanzitutto mi guardo bene dal commentare sul lavoro di un collega che sta facendo tutto il possibile per recuperare e riportare in carreggiata una compagnia che è chiaramente in difficoltà. Noi abbiamo il nostro bel da fare con Meridiana che dopo 9 mesi di cura di ristrutturazione sta producendo finalmente dei risultati non solo in linea con gli obiettivi ma anche molto più positivi. Abbiamo avuto un'estate record con un aumento dei passeggeri in controtendenza rispetto al mercato italiano, in cui il calo dei passeggeri è strutturale su tutto il territorio nazionale, e abbiamo realizzato quindi buona parte del nostro programma di ristrutturazione. Adesso puntiamo a un pareggio operativo l'anno prossimo e contiamo di poter dimostrare l'anno prossimo o nel 2015? 2014. Perché voi perdete 170 milioni di euro nel 2012 e avete 70 milioni di debito con le banche. No, mi interessa, gliel'avrei fatta come ultima domanda, ma va bene. Guardi, noi quest'anno chiuderemo con delle perdite che sono più che dimezzate rispetto a quelle dello scorso anno, in virtù dei risultati molto positivi che appunto abbiamo conseguito in questi primi mesi dell'anno. E l'anno prossimo contiamo di completare il percorso di ristrutturazione. Chiaramente questo vuol dire che anche in Italia, in condizioni estremamente competitive, è possibile fare trasporto aereo e non solo contribuire allo sviluppo economico e turistico del paese. Non ci dimentichiamo che il trasporto aereo fa un servizio all'intero paese, è il primo sviluppatore di indotto che c'è nell'economia mondiale, con un rapporto di un dollaro investito nel trasporto aereo produce 9 dollari di indotto. Il secondo fattore moltiplicativo, la seconda industria con un fattore moltiplicativo analogo è l'energia, con un rapporto di 1 a 4. Quindi il trasporto aereo fa bene a un paese. Il paese Italia, se vuole rimanere non solo nel G8 ma nel G20, ha bisogno di una grande industria del trasporto aereo e ha bisogno di renderla competitiva. Noi non possiamo sottostare a delle regole europee e nazionali e competere con dei concorrenti che sono non solo europei ma sono internazionali e utilizzano delle regole differenti. Questo è fondamentale se vogliamo mantenere un'industria che dà del lavoro a tante persone nel nostro paese, ma soprattutto porta in giro 60 milioni di persone, che sono il numero di passeggeri che durante l'anno utilizzano i servizi di trasporto aereo. Mi dica solo una cosa per concludere, Scaramella, voi come Meridiana avete 900 persone in cassa integrazione e 70 come Air Italy, alla luce di questo piano industriale cercherete anche di riassorbirli? Ma noi stiamo facendo il possibile per riassorbire il più possibile delle persone che abbiamo in cassa integrazione, ma purtroppo la nostra è una cassa integrazione per gestire degli esuberi strutturali che furono accordati già nel 2011. Quindi se riusciamo a fare meglio del mercato, probabilmente una piccola parte la riassorbiremo, ma lo sapremo nel 2015. E invece una cosa che le chiedo, così come richiesta personale, visto che voi avete quasi il monopolio, non dico il monopolio perché è sbagliato, sulla Sardegna, su Olbia e in parte anche su Cagliari, c'è l'Italia, quando è che cambiate questi MD-80 che, come dice il nome, sono aerei degli anni 80, consumano tantissimo, sono scomodi, non si possono vedere, li cambierete? No. Allora, il nostro piano industriale, che adesso è forte di risultati migliori, prevede un'armonizzazione e poi rinnovo graduale della flotta. Per rinnovare 30 aerei ci vogliono degli anni, non soltanto uno schiocco delle dita. Va sottolineato che gli MD-80 sono tra gli aerei più affidabili e con la maggiore reliability tecnica del parco degli aerei internazionali. Quindi noi andiamo molto orgogliosi della nostra flotta attuale, ma la cambieremo per sopraggiunti limiti di età nel corso del piano che è in via di esecuzione. E mi raccomando anche il servizio, Scaramella, perché ogni tanto non posso entrare in casi, in casi personali, ma l'ultimo volo che ho preso con Meridiana mancavano tutti i sacchetti, diciamo, per chi sta male in aereo, ero con mio figlio piccolo. Mi sono anche lamentato ufficialmente. Fare il 100% di puntualità è un obbligo, purtroppo non è sempre possibile. Quest'anno siamo riusciti ad avere oltre 1000 voli più puntuali rispetto all'anno scorso nei mesi estivi, che è il mese più difficile, facendo un record di puntualità. Chiaramente per quella decina di voli che sono arrivati in ritardo ma parlavo di alcune mancanze interne all'aereo, ma io vi ho anche scritto, per cui non ho problemi a dirlo, perché manca, se non voglio fare una polemica personale, però insomma, l'importante è dare anche un servizio interno, ma sicuramente la cosa più importante è che venga confermato e raggiunto poi l'obiettivo che vi siete dati, quindi pareggio di bilancio a questo punto a fine del 2014 e il dimezzamento delle perdite per quello che riguarda quest'anno. Grazie all'amministratore delegato di Meridiana, Roberto Scaramella. Buonasera, grazie e buon lavoro. No, non è la mia testa essere una giungla, ma quella del ministro Saccomanni, perché Saccomanni ha detto ieri che la seconda rata IMU si sarebbe dovuta pagare. Oggi sono fioccate dichiarazioni del ministro Delrio, c'è un impegno e va rispettato. Fatemelo sentire al volo, Delrio. Ci stiamo lavorando da tempo, ancora adesso l'economia ci sta lavorando ed è noto a tutti che trovare una somma di questo tipo a 2 mesi dalla dalla fine dell'anno non è semplicissimo, però c'è un impegno da parte del governo e quindi questo impegno va rispettato. E poi soprattutto il vicepremier Alfano, che ha detto la seconda rata non si pagherà, è un impegno che sarà mantenuto anche per Saccomanni, è eliminabile. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dimmelo tu, perché mancano 2 mesi a Natale a Spanne, no? Qui, lo sappiamo ancora. Lascia stare i 350 milioni della cassa integrazione in deroga, che io non ho capito, perché oggi il ministro Giovannini ha detto stiamo cercando questi soldi. Io avevo capito che li avessero già trovati nell'ultima manovra correttiva, come la chiamo ancora io. Però, dico, i 2 miliardi e 6 della seconda rata IMU, ma... si trovano o non si trovano? Perché non c'è tutto questo tempo, a me sembra. Io non sarei così sicuro che siano stati trovati, perché altrimenti il ministro Saccomanni a Londra non avrebbe detto ieri sera che vede la copertura comunque un problema di difficile soluzione. Se ne sta parlando nel governo e nella maggioranza di governo, ma ancora non è del tutto chiara la situazione. E quindi c'è un impegno che è stato solennemente, tra l'altro, sottoscritto nell'agosto scorso, in particolare tra il PD e il PDL, sul blocco definitivo, diciamo, della rata IMU, e che quindi gli italiani non dovevano pagare il 16 dicembre, ma poi sappiamo che le cose sono andate un po' diversamente, cioè che ancora questi 2,4 miliardi, se non di più, non sono stati ancora reperiti. Quindi io sarei prudente su questo terreno e non vorrei poi che ci fosse qualche scherzetto, nel senso che poi alla fine, siccome mi sembra difficile trovare dei tagli di spesa in corsa e da qui a dicembre trovare la soluzione con un taglio di questa portata, evidentemente impossibile, non vorrei che poi alla fine con l'acqua alla gola si ricorresse di nuovo magari a qualche ipotesi tipo l'aumento delle accise sui carburanti, e che allora ovviamente sarebbe una partita di giro e quindi, diciamo, questa non voglio nemmeno prenderla in considerazione, però non mi è assolutamente ancora chiaro. Si parla anche di una manovra che potrebbe arrivare da intensificando gli acconti che sono dovuti dalle banche. Si parla di altre possibilità, ma che sono tutte, diciamo, ipotesi. Beh, diciamo, la cosa chiara, per parafrasare Besozzi, è che i soldi non ci sono. Per il resto mi sembra che siamo di fronte a un ventaglio di ipotesi su come riperirli. Io ringrazio Guido Gentili, anche se termino qui, perché appunto non possiamo andare avanti a immaginare dove li troveranno. Spero che tu abbia torto sull'aumento delle accise. Comunque, grazie all'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili, e un ringraziamento da Sebastiano Barisoni, e anche per la pazienza in queste settimane, a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Simone Spezia e poi Deborah Rosciani. Un augurio di buona serata a tutti voi, noi ci risentiamo, gamba permettendo, domani dalle 17 in poi per raccontare un'altra giornata economico-finanziaria di questo bellissimo paese. Radio 24, la passione si sente.